in primo piano. Buongiorno. Buongiorno, allora vediamo i titoli in evidenza sui giornali, cominciamo dal Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore del lunedì ha il titolo più in alto nella sua pagina, dedicato al piano casa. Come sapete, questa settimana, venerdì, dovremmo vedere le misure nazionali che danno questa opportunità di intervenire sugli immobili. Il titolo del 24 Ore, piano casa, una partita a tre. E il Sole 24 Ore di oggi contiene anche tutta una serie di indicazioni pratiche che sono ispirate al disegno di legge della Regione Veneto, che è quello su cui dovrebbe poi costruirsi il provvedimento governativo. Il titolo centrale della prima pagina del Sole 24 Ore, giallo invalidi, 30% in più, lo vedremo meglio nella seconda parte di questa rassegna stampa. Di cosa si tratta? Dal 2004 sono ancora in crescita gli assegni civili e le indennità di accompagnamento. I pensionati sono oltre 2,1 milioni, l'INPS prepara 200.000 controlli e a Nola c'è il record dei ricorsi con una causa ogni 10 abitanti. E poi, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, le coppie di fatto sperano nella UE, perché la Corte Europea, riferisce Andrea Maria Candidi, dovrà valutare se estendere le tutele dopo i no del passato. Vediamo la prima pagina della stampa. Molti giornali naturalmente tengono in evidenza questa polemica soldi veri, soldi meno veri dati alle imprese e alle famiglie. La risposta, la replica che è giunta dal Presidente del Consiglio nella giornata di ieri. Abbiamo dato soldi verissimi, è il titolo della stampa. Il Cavaliere precisa il ruolo dei prefetti, promuove la brambilla Ministro del Turismo e venerdì via libera al piano casa. Berlusconi alla Marcegaglia, sulla replica appunto alla Presidente di Confindustria, 9 miliardi solo per gli ammortizzatori. Sulla stampa in evidenza anche il Pakistan, abbiamo sentito prima un collegamento con Mashaga, avremo un ulteriore collegamento con Mashaga nel prossimo giornale radio. Pakistan in fiamme, rischio guerra civile, l'ex premier marcia su Islamabad. E poi una grande foto nella prima pagina della stampa, la regione toscana ha preferito la Cecchetto a Naomi Campbell e la Campbell, riporta la prima pagina della stampa, dice: sono invecchiata, non mi vogliono più. Corriere della Sera, anche il Corriere della Sera apre, dedica il suo principale titolo allo scambio di battute che è successo nel fine settimana tra il Presidente del Consiglio e la Presidente di Confindustria. Berlusconi agli imprenditori, è il titolo del Corriere della Sera, abbiamo già dato soldi verissimi. Di spalla, cioè accanto a questo grande titolo sulla prima pagina del Corriere, una inchiesta di Guido Santevecchi, deglobalizzazione. Di cosa si tratta? Si tratta del rientro tra i confini propri, quindi il contrasto alla globalizzazione, se l'idraulico polacco torna indietro. Ricorderete la polemica che c'era stata partendo dalla Francia sulla possibile invasione, per dir così, di lavoratori dai paesi neocomunitari o dagli stati dell'ex blocco sovietico, appunto aveva preso poi la forma di questo idraulico polacco che poteva sottrarre il lavoro agli idraulici francesi. In Europa sono stati definiti l'idraulico polacco senza distinzioni, e la presentazione di questa inchiesta di Guido Santevecchi sul Corriere della Sera, anche se erano immigrati regolari venuti da molti paesi e disposti a fare 1000 lavori diversi. Erano centinaia di migliaia, sono stati per gli ultimi 5 anni al centro del dibattito. Fanno bene all'economia dei paesi che li accolgono o sono un costo sociale? E appunto quello che sta succedendo è che l'idraulico polacco, in qualche modo, non trovando più grandi spunti, grandi occasioni lavorative, torna a casa. E nella pagina sempre del Corriere della Sera, la cronaca con questa vicenda incredibile di Scicli a Ragusa, dove un bambino di 10 anni è stato ucciso da un branco di cani. E poi una indicazione di Alessandra Arachi, stalking, 2 arresti al giorno. Di cosa si tratta? Lo stalking è questo reato che da poco è stato codificato nel nostro codice penale, è un reato che colpisce le molestie, tratta delle molestie ripetute e continuate, ad esempio con telefonate, con appostamenti che possono diventare molesti. Bene, da quando è entrato in vigore il decreto legge sui molestatori, gli inquirenti si sono attivati, gli arresti si susseguono a ritmo frenetico, circa 40, scrive Alessandra Arachi, in una ventina di giorni, quindi praticamente si tratta di due arresti al giorno. Vediamo la Repubblica che sceglie di dare il titolo più importante alla battibecco Berlusconi-Marcegaglia. La risposta del Presidente del Consiglio che è venuta ieri da Cernobbio: alle aziende ho dato soldi veri. Il Presidente del Consiglio a Cernobbio: sosteniamo interi settori, però, riferisce anche il titolo della Repubblica, la Banca Mondiale dice è difficile investire in Italia. Venerdì, ricorda il titolo di Repubblica, il decreto sul piano casa. E poi una l'intervista del Presidente della Fed, della Federal Reserve, Ben Bernanke, che ha tranquillizzato gli americani, una delle poche voci positive che si sono sentite di questi tempi in questi ultimi giorni. Bernanke: più disoccupati, ma il rischio depressione è alle spalle. Questo è il giudizio di Bernanke. Poi la vicenda dei Prodi e del Partito Democratico. Correre da soli, dice il titolo di Repubblica, riferendolo a Prodi, fece cadere il mio governo. Trova spazio sempre su Repubblica la vicenda pakistana. Scontri in Pakistan. Sharif sfida l'esecutivo, marcia di protesta su Islamabad. Passiamo al giornale. Il giornale decide di sormontare il titolo centrale della prima pagina con una grande foto dedicata al lavoro che c'è. Ecco 3.000 posti subito disponibili, impiegati, tecnici, operai, manager, segretari. Nonostante la crisi ci sono molte aziende pronte ad assumere, vi diamo indirizzi e numeri di telefono. Sapete che anche il Sole 24 Ore, sul sito del Sole 24 Ore ci sono delle indicazioni e opportunità di lavoro sulla parte di Job 24. E poi ancora un titolo in qualche modo anticrisi: tutti i soldi stanziati contro la crisi, è il titolo principale del il giornale in edicola oggi. Riassume sotto il titolo con due righe: già 70 miliardi per famiglie e imprese. Berlusconi: denaro vero. E ora aiutiamo il commercio. Il premier a tutto campo, dal piano case al fisco, svela quali saranno le prossime mosse del governo. Una vicenda davvero particolare sulla prima pagina del giornale, nella parte bassa. Entomo, il supereroe di Napoli che fa la ronda mascherato. È un articolo di Cristiano Gatti, si chiama Entomo, ha 31 anni, nessuno sa chi sia, da due anni pattuglia le strade di Napoli mascherato come un supereroe dei fumetti, non spara, non picchia, ma segnala ciò che vede alla polizia. Una sorta di vigilantes in questo periodo in cui si parla di ronde, appunto, sono stati anche varati delle disposizioni per consentire ai comuni di organizzare questo tipo di attività dei cittadini. Qui si tratta di un solitario, appunto questo Entomo, che si muove a Napoli e pattuglia le strade di Napoli con questo curioso costume. Su Il Giorno il titolo principale è dedicato a una vicenda estera che non ha spazi su altri giornali. Si tratta di un'inchiesta, un reportage dal Messico, dove i narcotrafficanti contano più dello Stato. Benvenuti all'inferno, il titolo: 6.000 morti in un anno, torture, orrori quotidiani, contro i boss non basta nemmeno l'esercito, è un'autentica guerra che ora spaventa anche Obama. Sempre sulla prima pagina del Giorno la vicenda Berlusconi-Marcegaglia, abbiamo dato soldi verissimi, e poi la vicenda di cronaca siciliana, sbranato a 10 anni, arrestato il custode dei cani randagi. Il Secolo XIX, già dati soldi veri, decreto sull'edilizia venerdì, il via al piano casa, così vengono riassunti i temi della politica sul giornale di Genova. E poi vediamo dal Messaggero, identico titolo dal Messaggero: Berlusconi, dati soldi veri. Anche qui piano casa per decreto, ripetiamo, dovrebbe avvenire il varo di questo piano casa venerdì. L'opposizione però accusa il governo, nasconde i problemi. E poi il Messaggero tiene in evidenza, come è comprensibile, la vicenda delle indagini sullo stupro della Caffarella, indagini sull'interprete di Mailat, un filo tra Caffarella e Tor di Quinto. C'è l'ombra degli stessi complici, riferisce il Messaggero, tra lo stupro di San Valentino e il delitto Reggiani. Sul Messaggero in evidenza anche la vicenda accaduta uscita a New York, rissa ai provini del reality, 6 feriti, come sapete migliaia di ragazzi erano in coda per questo provino di America Next Top Model e è successa una rissa e nella confusione sono rimaste ferite in 6. L'unità riprende la vicenda delle coppie di fatto, abbiamo visto che sul Sole 24 Ore di oggi riferiamo della causa che dovrà essere discussa alla Corte di Giustizia sulla equiparazione tra coppie di fatto e coppie sposate per quanto riguarda le rendite INAIL, e una causa che verrà discussa tra poco alla Corte, da cui potrebbe derivare un riconoscimento appunto alle coppie di fatto. L'Unità sceglie di dedicare la sua prima pagina in gran parte a questo un caso delle coppie di fatto, questa vicenda delle coppie di fatto. Il titolo "Malamore no" viene spiegato da un lungo sommario che spiega: aumentano le coppie di fatto, sempre più italiani chiedono una legge, i DICO, ricorderete, erano stati proposti nella legislatura precedente, una sorta di riconoscimento delle coppie di fatto, sono stati dimenticati, il governo li ignora, il Parlamento è fermo. Questo il titolo della prima pagina dell'Unità. E finiamo questa rassegna di alcune prime pagine con la Gazzetta dello Sport. Il lunedì è naturalmente sempre un giorno importante per il campionato per lo sport in Italia. Ibra non fa sconti è il titolo più grande della Gazzetta. L'Inter batte la Fiorentina, la Juve torna a meno 7, espulso Mourinho. Due gol del centravanti, le parate di Julio Cesar piegano la squadra viola. Ma sopra il titolo la giusta, doverosa dedica a Pippo Inzaghi, che è arrivato a 300 gol in Serie A. Super Pippo sfreccia a 300, e si riferisce però in questa prima pagina della Gazzetta dello Sport che oltre alla doppietta di Inzaghi e di Pato, ottime notizie per il Milan ieri a Siena, c'è l'infortunio ad Abbiati che, spiega la Gazzetta, si fermerà per 6 mesi. Il commento della giornata di campionato è affidato a Germano Bovolenta, e naturalmente riferisce un po' dell'andamento delle varie partite, ma quello che è interessante notare è che il titolo che hanno scelto la Gazzetta è "Titolo in risalita". Oramai questa dichiarazione di Mourinho su 0 titoli è diventata quasi un modo di dire corrente. Abbiamo visto le prime pagine di diversi quotidiani oggi in edicola. Vediamo quali sono i temi su cui i quotidiani stessi si differenziano un po'. C'è molta naturalmente convergenza sulla questione, sul battibecco tra Berlusconi e Marcegaglia, Presidente del Consiglio, Presidente di Confindustria, sulla realtà o meno degli stanziamenti forniti fin qui dal governo. Di questo tra l'altro si occupa una intervista che appare sulla Stampa. La Stampa di oggi riporta un'intervista a Scaiola. Tra le varie dichiarazioni del ministro delle attività produttive si legge: c'è chi dice, è la domanda che gli rivolge Paolo Baroni, questi non sono soldi in più, sono fondi già previsti nel bilancio dello Stato che sono stati solo reindirizzati, sono quelli per le aree sottosviluppate, che sono finite le grandi opere, quelli per la formazione agli ammortizzatori sociali. Risponde Scaiola: il nostro primo impegno deve essere quello di utilizzare al meglio le risorse disponibili prima di aumentare il deficit, operazione rischiosissima per chi ha un debito come il nostro. Grazie a questa prudenza stiamo emettendo titoli di Stato a tassi molto bassi, cosa che dovrebbe essere apprezzata anche dalle imprese. Ma qui Scaiola prende un po' il pallino rispetto all'intervista. Mi lasci dire un'altra cosa. Dica: il nostro vero tesoro è il risparmio delle famiglie. 8.000 miliardi di euro, secondo le stime Banca Italia, riferite al 2007, a fronte di un debito dello Stato di 1.700 miliardi. Ebbene, dobbiamo indurre le famiglie a spendere, investire, mobilitare una parte di questi risparmi. Lo abbiamo fatto con gli incentivi per auto, moto, elettrodomestici e mobili, che stanno rimettendo in moto un settore che significa non solo Fiat, ma acciaio, plastica, gomma, le 2.500 imprese dell'indotto. E qui, prosegue Scaiola andando a tornare poi sulle vicende del piano casa, che probabilmente animeranno tutta questa settimana, lo faremo con il piano casa voluto da Berlusconi, che potrebbe attivare decine di miliardi di investimenti immobiliari. Questo appunto, queste dichiarazioni del ministro delle attività produttive Claudio Scajola, che trovate sulla Stampa di oggi. Vi dicevo di questa prima pagina dell'Unità dedicata alle coppie di fatto, un tema che effettivamente è molto calato nel dibattito politico e non solo. Spiega l'inchiesta che l'Unità ha deciso di tenere come primo piano: coppie di fatto senza legge, ma è boom tra gli italiani. Riferiscono i numeri di queste pagine curate da Maria Zegarelli che in Italia ci sono 637.000 conviventi, le coppie di fatto sono cioè poco meno del 5%, ma bisogna tener conto che il fenomeno è in crescita tra le nuove generazioni. Il sorpasso delle convivenze sui matrimoni è previsto per il 2015. I matrimoni infatti sono in calo, costante dal 1972 in Italia il calo dei matrimoni, dal 2001 al 2006 le coppie che hanno deciso di sposarsi sono circa 250.000 ogni anno, sono diminuite di circa l'8%. Nel 2006 il tasso di matrimoni è stato del 4,1 ogni 1000 abitanti. Questo appunto la prima pagina dell'Unità e l'inchiesta poi dell'Unità. L'articolo di Andrea Maria Candidi sul Sole 24 Ore di oggi ci spiega che le coppie di fatto italiane tentano di nuovo di forzare la mano ricorrendo ai giudici europei e con l'occasione di riaprire il dibattito sul riconoscimento di pari diritti rispetto a quelli attribuiti a chi è unito in matrimonio. Nelle prossime settimane, infatti, la Corte di Giustizia UE ci dirà se non sia discriminatorio e quindi contrario al diritto comunitario assegnare la rendita INAIL al solo coniuge della vittima del lavoro e non anche al partner convivente. Questa la segnalazione di Andrea Maria Candidi. Ricordiamo che ad esempio tutta la polemica sul possibile innalzamento dell'età di pensionamento delle donne nasce proprio da una decisione della Corte di Giustizia UE, quindi questo dice l'importanza di questa segnalazione sul Sole 24 Ore di oggi. Vi dicevo di questa vicenda curiosa del supereroe a Napoli riferita dal giornale, Entomo si fa chiamare, il titolo del giornale dice la ronda di Napoli è un vero è tra parentesi supereroe, si chiama Entomo, agisce mascherato, nessuno sa chi sia, però dice lui in queste dichiarazioni rilasciate a Cristiano Gatti: i criminali quando mi vedono scappano, chissà perché è il sintetico commento del titolo. Ha 31 anni, è napoletano, il suo nome è conosciuto solo da pochissime persone e appunto questo mascheramento gli serve per fare da vigilante, da vigilanza attiva nelle strade di Napoli, però precisa che non ricorre mai alla violenza, si limita a denunciare le cose che vede alla polizia. Vi segnalo dal Messaggero, ma la vicenda è anche riferita da Repubblica, l'emergenza carceri, le carceri scoppiano di nuovo, i detenuti sono 60.000, i posti 43.000. Alfano, a volte vengono violati i principi di umanità. La capienza massima tollerabile delle carceri italiane è intorno ai 63.500 posti, ma intesa come capienza massima tollerabile con persone che, come si riferisce anche su Repubblica, vengono poi messe a dormire per terra con brande di fortuna e posti di fortuna. Tornerei come cosa finale, come cosa conclusiva sul Sole 24 Ore. Vi dicevo che trovate due pagine di spiegazioni sul piano casa, di cui poi vedremo il provvedimento nazionale nel corso di questa settimana, probabilmente venerdì. Vi ricordo l'inchiesta sulle invalidità che sono ancora in crescita, l'impennata è notevole perché siamo ormai a 2.137.000 beneficiari di trattamenti di invalidità, l'inchiesta è di Gianni Trovati e poi su Affari Privati una guida per i prestiti, conti in tasca per pagare rate sostenibili.